Buonasera, benvenuti questa sera al Non Smetto di Sballare, gente. Finora alla console DJ Rico, un applauso, grazie. Questa sera esclusivamente per noi, direttamente dal suono che smuove la gente, arriva in modo inconfondibile proprio lui, l'unico, inimitabile EXT, chiamato Exi l'Irriverente. Allora, direi che ci siamo. Voglio vedere in cielo la mano. Su balliamo. Voglio vedere movimento, ragazzi, diamoci dentro. Il countdown è partito, tutti insieme. 3, 2, 1. Anche se è caldo è tempo di sballo, li ballo su culi, mi striscio su un fallo. E ballo motivo, in punta di piedi, movimento di arte, no arte, gesti osceni. Ma sono un figo, questo è il mio palco, un altro tiro e sono fatto. Le luci, la musica danno alla testa, è un danno ma fanno alzare la festa. Ho sulla cresta, sono uno che pesta, in essere la sesta, quella tipa già fatta. Nessuna disfatta, la pasticca mia fresca, vinta la mia scommessa, dammi ciò che mi spetta. Paga da bere, voglio le vene piene, riempi il bicchiere, è tempo di mele. Giù un altro giro, per nulla nocivo, ora ancora più figo, vado a fare bottino e chiedo attenzione. Sono un leone che vuole la preda, la vedo da solo in pasticcata maniera. Sistemo la criniera, la inciaggia rettiera. Disco music, music disco, questa è music, music disco. Disco music, music disco, questa è music, music disco. Il mirino e la prendo per mano. Se mi sento più attivo la sbatto là sul divano. Io me la faccio, ti va se scopiamo. Ok, basta baci se me lo ficchi nell'acqua. Ci vado piano ma sta raga è strafatta. Da quanto spinge a momenti mi schiatta. Dalla sua faccia questa è una che spacca. Se vede un pacco non è poi così fiacca. Porca baldracco, ho preso la cateratta. Oh, non mi ero accorto che qui c'è la tratta. Mollo sta di ord mentre è ancora distratta. Mi lancio nel gruppo e lei ora che succhio. Vedo una mucchia e mi ritaglio il mio spicchio. Non serve che picchio per avere lo spazio. Questa è la casa dei puttanieri, l'ospizio. Per ogni paro c'è più di un orifizio. Ora mi vizio così vi ogni mio sfizio. Vedo una tizia che sta già con un tizio. Bella ti va di venire a fare un giro? Lei guarda lui. Ok, mollo sto bambino. Disco music, music disco. Questa è music, music disco. Disco music, music disco. Questa è music, music disco. Si è fatto tardi, butta fuori i bastardi. Vedo quattro balordi per ancora baccarli. Sono troppi tardi, meglio andare a lasciarli prima che ci ripenso e mi viene da pestarli. Scendo le scale, una raga sta male. Avviso in locale, tranquillo deve sboccare. Lo guardo bene, il tipo è uno che beve. Mi accompagna al bancone, mi offre da bere. Mi porge il bicchiere, si mette a sedere. Inizia a fumare nella mia bevanda. Butto una bianca, grande come una panca. L'uomo è un'anima santa, così bevo di schiena. E comincia la pena, sento la vena piena. Penso appena, parta a girare. Io non sto bene, ed inizia a gridare. Lui prende il boccale, si fa un altro giro. Allora tiro un urlo, lui mi tira un pugno. Le raga mi vedono e mi credono curdo. Tornano a ballare mentre sto per andare. Fuori dal mondo, fuori per sempre. Disco music, music disco. Questa è music, music disco. Disco music, music disco. Questa è music, music disco. Disco music, music disco. Questa è music, music, music, music disco. Disco music, music, music disco. Questa è music,